Puntata numero 1. Il popolo di Barabba, liberi di pensare con la propria testa. Un caro e caloroso davvero saluto a tutti coloro che hanno intenzione di ascoltarmi. Io sono Stefania e sono qui insieme a Radio Big World, che mi sta dando l'opportunità di esprimere alcuni pensieri che ormai da tanti anni sono rinchiusi nella mia mente. Mi piacerebbe condividerli con voi. Oggi mi piacerebbe iniziare a parlare di educazione, che sarà poi il tema filo conduttore per tutto il tempo che Radio Big World mi vorrà offrire. E mi piacerebbe partire da un piccolo fatto che mi è successo a me quando ero davvero molto piccola e andavo all'asilo. All'epoca vivevo in un paesino di mezza montagna, Castelnuovo Val di Cecina, non so quanti lo conosceranno. Io andavo all'asilo e non volevo andare all'asilo, non mi piaceva, andavo all'asilo dalle suore. Poi successe un fatto molto molto bello, che oggi a 63 anni me lo porto ancora dietro. Arrivò all'asilo una piccola suora, molto giovane, non mi ricordo il nome purtroppo. Questa suora, quando mi vide così disperata che non volevo stare insieme agli altri bambini, mi fece una carezza. E io questa carezza ancora me la porto dietro. Cioè, l'aver incontrato questa suora che mi ha fatto quella carezza, ma non è stata una carezza così. È stata una carezza amorevole, quella suora mi amava, mi accoglieva. Io in quella carezza ho sentito tutto il calore della persona che ama un altro. E questa carezza mi ha accompagnato, ecco, e mi sta accompagnando tuttora, e mi ha fatto riflettere appunto sull'aspetto educativo, di quanto sia importante il contesto in cui uno vive, di quanto sia importante il rapporto con la mamma inizialmente, di quanto sia importante il rapporto in famiglia, con i fratelli, a scuola, con i compagni, nelle associazioni sportive, con i ragazzi con i quali condividiamo lo sport, al catechismo, in tutti quegli ambienti, oppure semplicemente anche nella piazza del paese, incontrando gli amici e giocando con loro. E di quanto siano importanti questi incontri, perché determinano poi quello che sarai domani. Andando, ho avuto l'opportunità di incontrare molti bambini e molti ragazzi nelle scuole del nostro territorio, e devo dire che ci sono tantissimi ragazzi e tantissimi bambini straordinari, però a molti di loro manca proprio il sentirsi amati, e non è una cosa da poco, perché se uno si sente amato uno cresce bene, se uno non si sente amato purtroppo può succedere di tutto, si può prendere le strade le più deviate, e parte proprio da quest'amore che uno sente, percepisce perlomeno, perché i genitori sicuramente amano i loro figli, però bisogna vedere se i figli lo percepiscono come un amore effettivo oppure un amore così frettoloso e dato da un intervallo e l'altro del lavoro. Beh, insomma, questo è un argomento molto, molto delicato e molto particolare, ma per farvi capire e per capire io stessa quello che sto dicendo insieme a voi, vi faccio un altro esempio. Ho avuto una grande opportunità, a parte nella mia vita è stata costellata sempre di grandi opportunità, di incontri fantastici, e ringrazio proprio tutte le persone che ho incontrato e che mi fanno pensare oggi così come la penso. E dicevo, ho avuto l'opportunità di andare in Africa, di fare questo viaggio nella Repubblica Democratica del Congo con un'associazione del territorio. Sono stata 4 giorni nella città di Lubumbashi, una città a sud della Repubblica Democratica del Congo, nella regione del Katanga. E lì ho visto i bambini di strada. Insieme alla mia compagna di viaggio abbiamo veramente visto degli orrori che, insomma, hanno veramente segnato poi anche i miei pensieri, il mio percorso di volontaria e le mie idee su quello che è il fare bene. I bambini di strada abbandonati a se stessi fin dalla tenerissima età, perché le famiglie non hanno di che sfamarli, quindi l'ignoranza, ma non ignoranza per disprezzo, ignoranza perché sono analfabeti, non conoscono, e quindi ecco, l'ignoranza si perpetua a fare tanti bambini e poi non sanno come mantenerli, li abbandonano per strada, e quello che devono subire questi bambini Dio solo lo sa, insomma sono esposti alle peggiori cose. Un giorno mi sono recata a un cimitero perché dovevamo fare il funerale ad un caro amico morto a 33 anni. Il cimitero di Lubumbashi, uno dei tanti, insomma, era enorme, sconquassato, pieno di polvere, perché non c'è asfalto, non c'è strade. E a un certo punto in lontananza abbiamo visto arrivare tante camionette, anche quelle tutte sgangherate con un puzzo di gasolio, non so, di nafta, non so che cosa andavano quelle camionette, piene, gremite di ragazzi, molto giovani. Io non riuscivo così a dare un'età, ma non superavano i 20 anni. E sono arrivati al cimitero, sono scesi dalle camionette. Il cimitero, purtroppo, c'era tante persone che accompagnavano i loro cari per la tumulazione, perché in Africa si muore tanto. E questi ragazzi hanno cominciato a disturbare, a fare delle cose oscene, e poi hanno cominciato a picchiare. In cambio del loro comportamento migliore, diciamo così, volevano i soldi. Ora, noi siamo stati molto fortunati in quel frangente, perché se avessero visto che eravamo bianche, ci chiamano i dollari che camminano, quindi pensate voi, poteva succederci di tutto. Poi insomma la prontezza dei nostri accompagnatori ci hanno portato via di lì. E nel viaggio, nel tornare nella parrocchia che ci ospitava, stavo riflettendo, ma che cosa potevano fare di diverso quei ragazzi cresciuti per strada? Ecco, questa è una riflessione che mi sta accompagnando anche nel nostro territorio, lì in cose estreme, un territorio davvero tanto ostile, dove non c'è praticamente spazio per l'amore, per le tenerezze, per il gioco, per i diritti dei bambini. Non c'è spazio per questo, i bambini sono misfrattati, sono sfruttati, sono usati, e quindi non possono altro che diventare poi quello che abbiamo visto. Non questo per giustificare, però per comprendere del perché una persona poi arriva a fare delle cose orrende, perché vive quello che vive. Io sono qui, perché vivo qui, e probabilmente se ero nata in Africa, probabilmente il mio destino era uno di quello, come quello di quei ragazzi, forse sì, forse no, non lo so, però la probabilità era molto alta. Ecco, io con questo vorrei concludere, almeno per oggi. Vi ringrazio davvero di cuore, e ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. Alla prossima puntata. Grazie.